Ascolta. Vediamo se Fabio lo copia o Fabio. Ascoltata Fabio, Marco. No, sento segnali anche qua, in AM però, qua. Vediamo un po', Fabio, fai un passaggio, spingi tutto, metti a manetta. Adesso devo tornare il microfono, ma ci arrivo di radio, ma se è lui che sta parlando, qua è più basso, addirittura senti così, perché? Cosa ha toccato? Nulla. Fammi la ponte, Robè. Dice, non ha toccato niente, infatti buono, anche io il segnale è sempre uguale, lo sento, non riesco a capire come mai tu l'ascolti, non è che c'hai qualcosa tu invece, che c'hai le feghe in chiuso. No, no, tutto a manetta qua, aspetta che tocco, sì, tutto a manetta. Cioè lì 7,5 massimo, qua è 6. Qua poco da toccare, cioè non va nulla il apparato. Sì, ecco, adesso ci sei, 8,5, ma radio abbastanza bassa, però almeno riesco a capire, dai. Allora, tu ti sei abbassato, da 9,30 sei sceso a quasi poco meno di 9,20. E lui ti ha aumentato il segnale, strano, buh. Aspetta, c'è anche Claudio Ramura, avanti Claudio se ci ascolti. Claudio, ci sei. Aspetta, lo chiamo su 10 che magari non ha sentito lui. Canali così è oggi, Guarda che anche al rientro facevo fatica a ascoltarmi, in certi tratti. Ma chi è questo che parla sotto? Avanti. Non lo sento più a Fabio, sono andato anche su a me, a Fabio, a Claudio. Sono andato sul 10 e non c'è. Claudio, ci sei? Tu, riprendete voi, vai Fabio. No, qua ti sento male anche di radio, poi c'è un ronzio sotto, cioè avrai dei rientri allucinanti. Sento un rumore brrr, poi la voce è tutta strappata. No, ti ascolto male però. A me sembra Massimiliano questo che è sotto. Avanti, Massimiliano, tu sei. Chi sei? Avanti, non ho capito. Purtroppo c'è molto USB, non ho capito chi sei, parla più lentamente. No, vabbè, lasciamo per. Può essere locale, dai, purtroppo non ti sentiamo bene. È troppo a andare e vieni il segnale. Vai Marco di nuovo. Come ho detto prima, la propagazione quando non la vuoi c'è, quando la vuoi non c'è. Infatti, mi sta venendo mal di testa pure, ho messo lo squelce per coprire tutta la cozzaglia di rumori di fondo, di segnali di fondo. Comunque, questo è ancora niente, roba, io mi ricordo metà anni 80, verso forse tendenti al 90, io avevo una mini Grand Plane ed era molto in basso, no? Praticamente è come che ci fossi in veicolare. Praticamente c'era una cozzaglia di segnali che arrivava a Santiago 9, fissa, non riuscivi a parlare in città, almeno chi aveva antenne basse, un po' come era la mia Grand Plane full size, però bassa, non riuscivi a parlare con gli altri, era una cosa folle, molto più di adesso e molto di più. Tu addirittura non eri entrato in quegli anni, ma era il massimo che c'era di propagazione. C'erano più macchie solari, credo, e dipende da quello. Non mi ricordo Marco. Copiato, Robè? Sì, ho capito. No, ha parlato Fabio, però. Vabbè, ne abbiamo parlato insieme volontariamente. Ho detto, mi pare che intorno al 90 c'è stato il picco un decennale solare ed era stratosferico, era un bijou. Boh, vabbè. Come fanno? È previsto il discorso dei 10 anni? Dovrebbe esserci un picco se tutto è come previsione? Sì, se si sta alzando così la propagazione può darsi. Ciclo un decennale del sole, dai. Se andranno via? Addirittura esce di notte adesso. C'è macchina, c'hai tu Fabio? Un A4. Non ho capito, scusa. Un A4. Ah, sì, allora avevo capito bene, sì. Ti sento un bel male comunque Fabio, era molto meglio prima purtroppo. Fabio, comunque ho capito che stai partendo, no, gran macchina, le Audi sono le mie preferite di macchine, diciamo, di quella categoria lì, sono grandi macchine costruite in maniera maniacale, diciamo, numero uno a livello costruttivo, di motori leggermente meglio BMW, però sono sempre delle grandi macchine le Audi. No, io parlo a livello qualità costruttiva. La BMW c'ha un peluzzino prestazionale perché c'ha quei motori 6 cilindri in linea, diciamo, il top della tecnologia. Come rendimento di motore sono leggermente superiori, ma se la giocano di poco. Sicuramente l'Audi a livello costruttivo è numero uno, come finiture non ce n'è per nessuno. È un gradino sopra tutti gli altri. Motoristicamente un peluzzino la BMW ancora c'ha qualcosina di più. Diciamo che mi accontento, 204 cavalli, io ti ripeto, non mi senza quando la salita di scelta subito come leggero, un po' da sola, cioè da quelle curve che ho percorso, cioè 4 anni di sono 4 anni di fermo, non so che assoluto per la sicurezza, non è tu che sei nel campo. No, assolutamente, a livello di tecnologia a quattro ruote motrici l'Audi è il top 1 al mondo, non ce n'è per nessuno. È iniziato dai rally e poi ha proseguito cosa. Che cosa c'hai? Che motore c'hai sotto? Il 2000 o che cosa? Sì, no, già siamo abbastanza aggiornati, quando capita già ti faccio vedere qualcosina, anche noi facciamo. Ok, avanti Marco per Fabio che adesso si sta incamminando in quel di Olbia. Eia, sì, ho copiato adesso. Ok Fabio, dai, buona... per Trabacco, credo di aver capito, dai, buona proseguimento di serata, buon tutto. Sì, c'è volte che conviene viaggiare di notte, meno traffico, meno rotture di palle. Sentiamo le prossime, dai, in migliori occasioni. Comunque, hai visto i misteri delle lettere? Cioè, da te era più forte prima di segnale e adesso più basso, invece prima da me basso e adesso più alto. Oh, io ti dica, la posizione delle antenne è un mistero. Che antenna è? Una Venom 5 ottavi, poi c'è 2 figli e mezzo, che è molto importante. Sì, dai, chissà divertirsi, dai, tu già arrivi fortissimo così, figurati quando attacchi, scompariranno tutti gli altri. Va bene, dai, ti lascio andare, ciao, buon viaggio e buon tutto, dai, buona giornata per domani. Avanti Marco. Eia, dai, confermo i saluti. Ci sentiamo appena possibile. Io adesso roba e stacco, che sono stanco, sono sceso Florina per roba. C'è una questione a chiarire, non ho trovato l'interessato, quindi niente di fatto, viaggio a vuoto. Mi accendo un po' di TV adesso, voglio staccare la radio che già mi ha assordato la propagazione durante il viaggio. Porca miseria. Ok, io sto cercando di parlare con Claudio, se c'è, anche io adesso sono chiudo qualche minutino. Era con noi con 10 poi scomparso. Ci sei Claudio? Dai, faccio un passaggio su 10 se c'è per salutarlo, sono anche io chiuso. Dai, ciao a tutti di nuovo, ciao Marco, ciao Fabio e eventuali amici qua in ascolto sul canale 19. Ok, ciao ciao. Ciao Roberto, ciao, ci sentiamo, ciao.